Riflessioni da Marte. Anche quassù, da Marte, appare alquanto evidente, puntando il telescopio sul globo terracqueo, che la penuria di soldi, la mancanza di danè, di palanche, di sghei, chiamateli come volete, non garba, diciamolo, più o meno a nessuno. E questa cospicua malinconia, data dall'immagine miserevole dell'indigenza, è quella che ha fatto dire al rivale di Obama, candidato a presidente dello Stato ombelico del mondo, Mitt Romney, gli ha fatto dire: a me non importa niente dei poveri, del 47% della popolazione americana che è parassitaria e non paga le tasse perché non le può pagare. Quanto scandalo, via, diciamolo, per un comprensibile sfogo di un uomo ricchérrimo di fronte a qualcosa che mette davvero tristezza e ti fa passare la voglia di occupartene, specie quando si tratta di metà della popolazione americana. Nella penisola italica, almeno, si cerca di affrontarla con allegria, questa deprimente indigenza. Per esempio, spendendo con copiosa e sincera allegria, per l'appunto, i soldi pubblici, come alla Regione Lazio. Perché mai, infatti, di fronte alla possibilità di approvvigionarsi a piene mani dei soldi dei contribuenti, autolimitarsi in modo asfittico? Perché mai? Via, bando all'avarizia! Basta con questa crisi, almeno per chi ne può approfittare. Bisogna godere, si vive una volta sola. Del resto qualcuno nella storia italica non disse forse: chi può prender lieto sia, non ha senso la ristrettezza. Pare che disse proprio così. E colui che viene considerato alla Regione Lazio il principale prenditore pare venga chiamato Batman. La mamma però lo difende dicendo: è sempre stato onesto mio figlio, è di grande intelligenza, a 3 anni già leggeva Topolino, dice la signora. Evidentemente viene da pensare tanto si è immedesimato nelle letture che ha scambiato la Regione Lazio, per la grande cassaforte di zio Paperone, dove, ricordate, il vecchio Papero nuotava a stile libero e a dorso avanti e indietro tra i dobloni. E tra i personaggi di questo sacco di Roma, anzi del Lazio, qualcuno avrebbe individuato anche Alice nel Paese delle Meraviglie. Ma sì, un po' di gioia ci vuole nella vita. Vuoi mettere l'ebbrezza di poter spendere soldi a palate senza troppi pensieri, senza pesantezze, tanti tantissimi soldi non tuoi? E allora su con ostriche, champagne, book fotografici, ville sparse qua e là e feste fritto misto tra antichi greci e impero romano. Feste a cui ha partecipato pure Ulisse e individui mitici dall'aspetto maialesco. A rimembrare l'Odissea, tuttavia, Ulisse nell'Odissea veniva sempre definito glorioso e un po' tutti erano gloriosi nell'Odissea, a dire il vero, compreso il porcaio di Ulisse, ricordate, definito il glorioso porcaio. Ma a questi famelici festini di glorioso pare non sia stato avvistato nessuno, mentre di porcelli più di qualcuno. Il ballo del maiale, il ballo del maiale, è un ballo tutto nuovo che fa bene, non fa male. Il ballo del maiale, il ballo del maiale, per farlo non occorre un fisico bestiale,